GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. La regione diffonde i dati del turismo estivo in regione, presenze in crescita del 6% in controtendenza rispetto al resto d'Italia, in aumento soprattutto gli stranieri. Agenas dà il voto agli ospedali italiani, la regione eccelle su gravidanza e parto e sulla cura delle malattie cardiovascolari, meno bene la chirurgia generale. 11 friulani sono appena tornati in Italia provenienti da Israele, il rientro organizzato in anticipo per iniziativa del tour operator, il viaggio doveva durare una settimana. 36enne arrestato per stalking a Trieste, per mesi ha tormentato la sua ex con messaggi e telefonate ai domiciliari dopo aver violato il divieto di avvicinamento. Nuovo blitz, il terzo delle forze dell'ordine questa mattina all'interno del silos di Trieste, dove trovano rifugio per la notte tanti migranti in arrivo dalla rotta balcanica. E a proposito di migranti, a Pordenone sono in arrivo 50 letti da sistemare all'interno dell'hangar nella zona della Comina a nord della città. Regionalizzare le regole di tutela della pesca che stanno ostacolando il comparto, tanto che la flotta si è già ridotta del 60%, è la richiesta dei pescatori del Friuli Venezia Giulia. Facciamo rumore, è la nuova campagna dell'Arcigay presentata oggi a Udine, nuove testimonianze raccolte in regione per sensibilizzare sulle discriminazioni contro le persone LGBT. Le 12.31, ancora buongiorno da Alessandra Zigaina e Dario Ronzoni. Sono dunque positivi i dati sulla stagione turistica che si è appena conclusa. Oggi la presentazione in regione con il presidente Fedriga e l'assessore al turismo Bini. Friuli Venezia Giulia, un mare di turisti, o forse meglio dire una montagna di turisti, visti i numeri presentati dall'assessore Bini e dal presidente Fedriga, più 7,5% l'aumento delle presenze sui monti della regione rispetto al 2019, complice anche il più 52% di incassi fatti dagli impianti di risalita aperti anche d'estate. Stabili invece i dati relativi al mare, in linea con l'anno scorso, e appena 1% in più rispetto al pre-pandemia. A spiccare poi sono le presenze in città, più 16,4% rispetto a 4 anni fa. Contate 8,5 milioni di presenze di turisti complessive da inizio anno e l'obiettivo è quello di raggiungere quota 10 milioni, 10 volte il numero di abitanti di questa piccola regione. Massimiliano Fedriga, il presidente del Friuli Venezia Giulia. I numeri testimoniano che il 2023 è un anno che vede l'Italia in una contrazione del turismo, mentre il Friuli Venezia Giulia, la media italiana ovviamente, mentre il Friuli Venezia Giulia in controtendenza aumenta il numero di turisti, in particolar modo di turismo straniero. Questo penso sia frutto di un sistema che si è mosso e di una promozione importantissima delle regioni anche su mercati che prima erano meno, diciamo, frequentati nei canali comunicativi della regione e nei collegamenti. Penso in quello anglofono che ci sta portando risultati importanti. Ovviamente i grandi mercati stranieri di riferimento sono Austria, Germania, poi l'Est Europa, ma stiamo aprendo nuovi mercati. Capitolo a parte per il cinema, le 21 produzioni cinematografiche che hanno scelto di girare qui hanno speso sul territorio quasi 20 milioni di euro con ricadute importanti superiori ai 35 milioni. Trieste, Francesca Terranova, TGR, Friuli Venezia Giulia. Sanità, l'Agenzia Nazionale Agenas e l'Associazione Italiana che raccoglie le strutture private hanno esaminato la qualità dei servizi erogati dal pubblico e dal privato. Sentiamo cosa emerge dal rapporto sul Friuli Venezia Giulia. La sanità del Friuli Venezia Giulia eccelle su gravidanza e parto, sistema cardiocircolatorio e sistema nervoso, segue la media nazionale per chirurgia oncologica ed osteomuscolare, mentre fatica nella chirurgia generale nel sistema respiratorio. Questo è in estrema sintesi il verdetto del rapporto sulla qualità degli outcome clinici negli ospedali italiani, un documento elaborato dall'agenzia pubblica Agenas e da AIOP, l'associazione italiana ospedalità privata. 194 indicatori per ogni regione, sia per la parte pubblica sia per quella privata. I dati arrivano dal programma nazionale ESITI che attraverso parametri oggettivi misura l'efficacia della sanità. Ad esempio si va a vedere quanti pazienti sono sopravvissuti a un infarto dopo 30 giorni. In linea generale in Italia il privato accreditato fornisce risultati migliori. Le strutture pubbliche con tutte le 7 aree analizzate con qualità alta sono il 9% del totale contro il 27% del privato. In Friuli Venezia Giulia il privato è marginale e di fatto non entra nelle statistiche tranne che per la chirurgia generale, dove tutte e 4 i privati sotto analisi denotano peraltro una bassa qualità. Nello specifico, nella nostra regione per gravidanza e parto, sistema cardiocircolatorio e sistema nervoso, più di 2 strutture su 3 sono considerate di alta qualità, meglio della media italiana e del nord. Guardando gli aspetti più negativi, invece, ci sono margini di miglioramento sulla chirurgia generale, dove solo 3 strutture su 10 sono giudicate di alta qualità. Nessuna delle 4 strutture del sistema respiratorio dà buoni esiti, ma è un problema comune al resto d'Italia, dove solo il privato si salva in questo ambito. I dati fanno riferimento al 2021, anno ancora pesantemente segnato dalla pandemia, e misurano solo in parte aspetti sanitari ormai di grande rilievo, come l'assistenza territoriale. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Una comitiva di una ventina di turisti, tra cui 11 friulani, è appena tornata da Israele grazie alla prontezza del tour operator Nevio Padovani di Codroipo, che aveva organizzato il viaggio e che ha fatto rientrare tutti in Italia a proprie spese. In 22, 11 friulani e altrettanti veneti erano partiti il 5 ottobre dall'aeroporto di Venezia per Tel Aviv per un tour di 7 giorni in Israele organizzato dal suo tour operator, l'Abaco Viaggi di Codroipo. Quando è scoppiato l'inferno e le bombe di Hamas hanno sfiorato l'hotel dove li aveva alloggiati nel pieno dell'emergenza, con i turisti nel panico che gli chiedevano di rientrare, Nevio Padovani col suo staff ha avuto la prontezza di organizzare un autobus e di trasferirli in un kibbutz al confine con la vicina Giordania, accompagnati da una sua collaboratrice udinese che era con loro. Sono riusciti a passare la frontiera e superare i controlli nonostante il parapiglia del momento. Nel frattempo dall'Italia il tour operator li ha riprenotati a proprie spese con l'unica compagnia disponibile per l'intero gruppo, poiché le altre non rispondevano più, con partenza da Amman, il solo aeroporto sicuro. Domenica notte il volo di rientro su Venezia con scalo a Dubai, la fine dell'incubo. Padovani, per lei e la sua agenzia una prova di sangue freddo e professionalità? Questo noi lo adottiamo sempre, perché la prima cosa che facciamo è la sicurezza dei clienti quando sono in viaggio, e quindi tutto quello che succede è a favore dei clienti. Poi vediamo cosa succede nei rimborsi. Quanto avete speso di vostra tasca per il rientro? In questo caso abbiamo speso circa 22.000 euro. E chiederete rimborsi? Dove sarà possibile, sì, sicuramente non li avremo su tutti. Già sappiamo che i voli aerei non ce li danno tutti, ma noi non addebiteremo nulla ai clienti. Quando avete deciso di farli rientrare? Verso le 10:30 di mattina, quando i primi segnali che ci hanno dato i nostri corrispondenti in Israele ci dicevano che non è la solita scaramuccia che succede ogni settimana in quella zona, ma era una cosa seria. Cosa le hanno detto i turisti rientrati? Quelli che abbiamo sentito adesso ci hanno ringraziato per il sangue freddo che abbiamo avuto. Avete o avevate altre comitive laggiù? No, nessuno. Avevamo delle partenze da qui all'Epifania e che abbiamo prontamente annullato. Anche in quel caso restituirete i soldi ai turisti? Sempre, quando non viene effettuato un viaggio restituiamo sempre i soldi. Codroipo, Laura Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. La crisi in Medio Oriente ha portato alla cancellazione di un evento previsto al Festival di Danza Vis-à-vis. Lo spettacolo Me Ani Who I Am, previsto in prima nazionale a Gorizia sabato 14 ottobre al Teatro Verdi, non potrà andare in scena a causa dei tragici eventi in corso in Israele che impediscono alla Kibbutz Contemporary Dance Company di lasciare il paese e la costringono ad annullare la tournée. I biglietti acquistati in prevendita saranno rimborsati. Una persona è rimasta ferita nella mattinata di oggi per le ferite provocate da un incidente sul lavoro avvenuto in un'attività produttiva di Monfalcone. Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, la persona è rimasta ferita cadendo da una scala da un'altezza di circa 2 metri. Gli infermieri della Sores hanno inviato l'equipaggio di un'ambulanza da Monfalcone e l'automedica da Gradisca. La persona è stata trasportata a Cattinara, a Trieste, in codice giallo. I carabinieri di Trieste hanno arrestato un uomo di 36 anni per stalking commesso nei confronti della sua ex residente in città. Le denunce erano cominciate all'inizio dell'estate, ma gli episodi andavano avanti già da prima. L'uomo mandava messaggi e faceva telefonate in continuazione e manteneva un atteggiamento assillante e possessivo che ha costretto la donna a chiudere la relazione e a modificare le proprie abitudini per non incontrarlo. Nonostante il divieto di avvicinamento imposto da parte del GIP di Trieste, l'uomo ha continuato a importunare la donna. I carabinieri sono così intervenuti arrestandolo per violazione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria. L'uomo è ora agli arresti domiciliari. Nuovo servizio di controllo da parte della polizia al cosiddetto Silos, la struttura abbandonata e fatiscente dove trovano rifugio numerosi immigrati nei pressi della stazione ferroviaria. Agli immigrati presenti vengono visionati i documenti e così si procede a controllare tutta l'area. Un'analoga operazione era stata svolta solo pochi giorni fa. E sempre a proposito di immigranti, a Pordenone sono in arrivo dei letti per quanti stanno dormendo per terra all'interno dell'hangar della comina. First of all, we need a bed because we are people, maximum people sleeping is on the floor. Qui la gente dorme a terra, inizia a fare freddo di notte. Abbiamo sentito che ci arriveranno dei letti. Ve ne siamo grati, siamo davvero molto contenti. Sono in arrivo le prime 50 brandine nell'hangar in comina, dove da 3 settimane dorme una 60ina di migranti. In un secondo momento se ne aggiungeranno altre 20. La novità che ha la regia del prefetto di Pordenone Manno è stata annunciata ieri dopo un vertice in prefettura con tutti i soggetti del territorio coinvolti. Saranno messi a disposizione anche 2 padiglioni igienici mobili per complessivi 4 docce e 8 bagni. I migranti chiedono anche corrente elettrica. Ora ce l'hanno per 3 ore al giorno e soprattutto vogliono sapere se questa è una soluzione temporanea. Temono l'arrivo del freddo, specie di notte, e all'hangar non hanno acqua calda per lavarsi. Il prefetto ha indicato entro novembre la data per l'attivazione della struttura definitiva, la cui sede è stata individuata nell'ex stabile dei Comboniani, poco distante, che necessita di alcuni adeguamenti per il quale il prefetto intende chiedere un contributo al Ministero. Il sito potrà ospitare 50ina di richiedenti asilo più altri 20 posti per l'emergenza freddo. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. La Presidente della Repubblica di Slovenia, Nataša Pirc Musar, in visita a Trieste, sta partecipando con il Presidente della Regione Fedriga e il Sindaco della città di Piazza ad una cerimonia di fronte al Narodni Dom per la conclusione dei lavori. I 3, alla fine delle celebrazioni, pianteranno un tiglio nel giardino dell'edificio. A seguire è previsto un incontro bilaterale con il Presidente della Regione Fedriga. Parleremo di confini, ha spiegato il Governatore. Durante la mattinata la presidente slovena ha incontrato gli studenti delle scuole secondarie superiori di lingua slovena per discutere del futuro e delle sfide che aspettano i giovani. E diamo uno sguardo al tempo con cielo sereno sulla regione. Queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 22,5 gradi, mare calmo con temperatura di 23 gradi. A Gorizia 24, a Udine 23, a Pordenone 22 gradi. A Forlì di Sopra 19 gradi, Tolmezzo 18,5 gradi, Piancavallo 18 gradi, a Tarvisio 17, a Sappada 15 gradi. In montagna sullo Zoncolana e sull'Ussari 15 gradi, sulla costa Lignano è a Grado 22 gradi, la temperatura del mare nelle 2 località è di 22 gradi. Nel pomeriggio avremo ancora cielo da sereno a poco nuvoloso per velature in quota e temperature diurne molto al di sopra della norma per il periodo. Dalla tarda serata saranno possibili foschie o nebbie tra la costa lagunare e la pianura pordenonese al confine con il Veneto. Domani al mattino avremo cielo poco nuvoloso sulla zona montana, variabile su pianura e costa. Dal pomeriggio cielo variabile su tutta la regione con nubi basse sulla zona montana. Tra la fascia lagunare e la pianura pordenonese fino al mattino saranno possibili ancora foschie o nebbie. Viste le caratteristiche dei nostri mari, i pescatori chiedono di regionalizzare le regole per tutelare la pesca che stanno ostacolando il comparto. Alle 6 del mattino al mercato ittico di Trieste, il più importante della regione e soprattutto la porta d'accesso del pesce nel mercato europeo, le operazioni di vendita sono ormai concluse. Qualche vasca addirittura avanza. Il pesce, dice Guido Dozz, storico pescatore, non manca nei nostri mari. A mancare sono i pescherecci. Crollato il numero in pochi anni, la flotta si è ridotta del 60% a causa, dice, delle sempre più stringenti leggi europee che non tengono conto delle specificità dei nostri mari e ostacolano il lavoro. Tra gli esempi, Dozz cita le maglie delle reti che sono passate da 12 mm a 4 cm. Il problema grosso delle maglie è stato, quando è venuta fuori il regolamento, che i latterini, per esempio, che sono adulti, non sono giovanili, non possono essere più pescati. Quella risorsa valeva 5 milioni di euro in Friuli Venezia Giulia e adesso tutti i ristoratori devono comprarlo dalla Turchia. Regionalizzare le regole per tutelare la pesca, chiedono all'Europa i pescatori, mentre la scienza pone il problema del cambiamento climatico. La temperatura superficiale del mare a livello mondiale non è mai stata così alta e così a lungo come quest'anno. Igor Celic, ricercatore OGS. Il mare così caldo crea problemi per le specie che ci vivono, per le nuove specie che si possono adattare, specie invasive, per i mitili che ne soffrono, quindi fanno meno produzione, e per una produttività minore dei mari che abbiamo visto nei nostri studi. E a proposito di specie aliene, protagonista indiscusso dell'estate 2023, il granchio blu che divora le vongole, non solo. Trasportato dalle stive delle navi provenienti dai mari del nord, è diventato infestante. Nessuna specie che ci invade è possibile estirparla. Quello che possiamo fare è imparare a utilizzarla meglio. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. La sicurezza sul lavoro è al centro del ciclo di appuntamenti dal titolo 10 volte sicurezza, promosso da Confindustria Alto Adriatico, che si svolgerà fino al 21 novembre. Appuntamenti sono previsti a Pordenone, a Treviso e in diretta streaming. Su questo tema, ricorda il presidente Agrusti, è stato sottoscritto un accordo territoriale che ha come obiettivo zero morti sul lavoro. C'è anche un percorso formativo in cui risulta centrale il ruolo della LEF, l'azienda digitale modello, dove si svolge la scuola per la sicurezza a favore dei rappresentanti dei lavoratori, dei responsabili dei servizi di prevenzione e dei datori di lavoro. Arcigay Friuli ha presentato oggi a Udine la campagna Facciamo Rumore per sensibilizzare sulle discriminazioni e violenze nei confronti delle persone LGBT. 8 manifesti, 8 persone testimonial che hanno prestato la propria voce e immagine per raccontare la propria storia, per rappresentare la difficoltà che la comunità LGBTQIA+ trova nella propria vita quotidiana. Da aggressioni stradali al mancato riconoscimento della propria generalità, dal bullismo omofobico alla violenza ginecologica, passando per paure di chi lascia il proprio paese per poter essere se stesso, chi perde la fiducia nelle istituzioni dopo aver ricevuto un trattamento discriminatorio. Si chiama Facciamo Rumore, la campagna di sensibilizzazione presentata al Salone del Popolo al Comune di Udine, che Arcigay Friuli, attraverso il progetto di accoglienza Villa Cara, lancia sul territorio regionale. Luca Vida, Arcigay del Friuli Venezia Giulia. È una campagna che consiste in due parti, una parte di manifesti e una parte che ci porterà online. Siamo nel 2023 e quindi è anche il caso di essere un po' smart con le campagne. In fondo ai manifesti c'è un QR code, inquadrandolo si potrà accedere ai video intervista relativi alla campagna. I fini sono quelli di fare rumore, di sensibilizzare le persone relativamente alle discriminazioni e alle violenze che subiscono le persone LGBTQIA Plus nella vita di ogni giorno, ma anche di dire alle persone che ne sono vittima: non siete sole, denunciate e noi siamo qui. Udine, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. La giunta per le nomine, presieduta da Mauro Bordin, presidente del Consiglio regionale, ha espresso parere favorevole a maggioranza trasversale, registrando la sola astensione di Enrico Bullian, di Patto per l'Autonomia Civica Friuli Venezia Giulia, sulla candidatura di Eros Cisilino a presidente dell'Agenzia regionale Palenghe Furlane, Agenzia regionale per la lingua friulana, l'ARLEF. Per Cisilino si tratterebbe dunque di una riconferma, in quanto già al vertice dell'agenzia. Si conclude qui questa edizione del giornale radio regionale, che è stata redatta e condotta in studio da Alessandra Zigaina e Dario Ronzoni, in regia per la parte tecnica Viola Romanese e Dario Cassano. Ha collaborato in redazione Valentina Veneruso. A tutti voi grazie per averci seguito e un buon proseguimento d'ascolto. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.